Ladies and gentlemen, 7 e 30 minuti precisi. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Per qualsiasi problema siamo a disposizione fino alle 9. Pane, burro e rock and roll, l'Ariele, Friccantoni, Spadino e la squadra in redazione capitanata da Isacco Rizzi. Quest'oggi si aggiunge anche Marco Caravelli, intrappolato dal freddo di Rock FM. Stiamo occupando del buon Natale per Oroc. Siamo interessati alle vostre segnalazioni di denuncia, di protesta, di lamentela dell'arrivo di questo Natale 2007. Ma quest'oggi sarà a causa del freddo. Andiamo in controprogrammazione ai nemici di Isoradio, continuando le segnalazioni dedicate al vostro parabrezza congelato. Arrivano via SMS. No, ma questa è una stronzata. Devo leggerla, Spadino. La leggo. È un amico che ha problemi dalle 7 alle 9 del mattino. Dice: io vi ascolto sempre, mi assento solo per fare plom plom. Sono un orologio. Per grattare il ghiaccio uso la plin plin. Avvisa soltanto, bisogna mangiare un chilo di sale prima di farla e poi funziona. Grazie. How you doing out there? You ever seen to have one of those days where it just seems like everybody's getting on your case, from your teacher all the way down to your best girlfriend? Well, you know, I used to have them just about all the time, but I found a way to get out of it. Let me tell you about it. Che squillo di tromba! Che rullo di tamburi! Non si fa male alle nocchette a fare i rulli di tamburo così? Sì, ma fingo di non essermi fatto nulla. Bentornato, caro Freak. Avremo i compleanni di quest'oggi da servire freschi freschi, caldi caldi, in questo 19 di dicembre. I nati di oggi, tanti auguri vanno fatti a Italo Svevo. Nasceva nel 1861, sì? Scrittore italiano, mi ricordi subito almeno un paio di opere. La coscienza di Zeno. Già, certo, giusto. E vediamo un po' quale boost mi dia un aiutino. La 1, la 2 o la 3? Direi senilità. Senilità, sì. Due, oppure sì. Una vita. Una vita, esatto. Quale esatto. Le è piaciuto di più? Un classico, la coscienza di Zeno. La coscienza di Zeno, era un uomo pieno di coscienza. Attenzione, Zeno. Attenzione, 1915, il 19 di dicembre, nasceva Interpreti. Di più, maestro. No, di più, maestro. Mi faccia la edit come solo lei sa fare. Edith Piaf, come non l'avete mai sentita, nasceva proprio oggi nel 1915. Che ricordi ha della Piaf? Una donna interessantissima. Che donna. Con questa voce, con questa R che ti aggrediva. A proposito di gente che aggrediva, festeggiamo anche il compleanno di un celebre chitarrista, chitarrista e cantante dei Ten Years After, il mitico Elvin Lee. I go home. Che blues. Posso raccontare un episodio? Io rifacevo, come sto facendo ora. Ah, vedo che lei la trovo molto interessante. Ce lo dica la prego. La trovo molto interessante, ma non mi sono offeso, adesso l'ammazzo. Ci racconti l'aneddoto, la prego. Ma sì, io riproducevo, era il 19 dicembre, e, caso destino volle, io stavo rifacendo la solo di Elvin Lee, sì? E quando? Un amico americano mi disse, ma lo sai cosa dice? Ripete semplicemente sto andando a casa, sì, vado no. A casa sì. Dalla mia donna sì. E la cosa mi smontò talmente che dissi sì, in effetti il compose testo fa cagare. Basta. Però era interessante. I go home to my babe. Le è stato di ispirazione home, per qualche sua home, poesia. I go home, naturalmente. Tipo caccole. No, tipo non ho parole, ma in certi casi è meglio non averne. Il maestro Roberto Fricantoni, un'esclusiva di Rock FM. E adesso passiamo... la poesia sonora, Aviation Aviateur, Aviation Aviateur, era il grande Spatola, qua si fa cultura. Certo, maestro, guardi, fosse una bella donna la sposerei subito. Passiamo a un altro compleanno. Sì, passiamo a un altro uomo di cultura. Sì, 1966, il 19 dicembre, nasceva l'Albertone nazionale, Alberto Tomba. Alberto Tomba, quanti gloria, ricordi, maestro. Gloria e vanto della città di Bologna. Mi ricordo quando con Albertone, vero, andavamo a gnocche sulla sua Porsche. Non ci credo che lei è mandato sì. A gnocche con Alberto Tomba sulla sua Porsche. Ah sì, abbiamo cuccato un casino. Da, va perché bene. Alberto ci sa fare. Come ci sa fare Alberto? Saluti Alberto, ti vogliamo bene. Salutiamo anche Lisa. La va? Sì. Ma sì, dai, fa gli anni anche lei? Sì. Nasceva nel 77. Giovanissima, grande bella cantante, e brava. Bella e brava. Appassionata di rock and roll, quindi la salutiamo. La salutiamo, anche un encomio rocchettaro a parte. Brava Elisa. Yeah. life alive. Knock, knock, knocking on heaven's down wall. Hey, hey. Commerciale Duse Giant Center vi ricorda che nel reparto bimbi potrete visitare l'inimitabile presepe vivente. Accorrete numerosi. Questa volta Frick ci è andata proprio di lusso, sai? Fare la Madonna e Giuseppe è stato un salto di qualità. Abbiamo fatto strada. Sono quasi emozionato. Bello lui, tu parli bene perché la Madonna la faccio io. Ti vorrei vedere, caro Ariel, a braccia aperte per tutto il santo giorno, con sta tunica pesantissima e il blu, peraltro, mi sta anche male. Non è vero, Frick, stai benissimo? Hai un non so che di aulico. Zitto, zitto, che sta arrivando qualcuno. Vi ho sentito parlare. Ma sapete che la prima dichiarazione della donna e della cittadina c'è già dal 1792? Cosa sta dicendo questa? Ovvio che non lo sapete se ancora credete che Gesù Bambino sia maschio. Ma guarda, cucciolina, che Gesù Bambino era un maschietto. Col cavolo! La mamma mi ha insegnato che bisogna protestare di fronte al maschilismo. Oh mio Dio! Ah! Giuseppe ha bestemmiato! Ma no, no! Guarda, che non era una bestemmia! E il maschilismo non c'entra niente con la religione. Ora vai a giocare con le bambole, bambina, su, su. Vedi? Vedi, mi mandi a giocare come una femminuccia. Guarda, guarda che io non cucinerò e non laverò neanche i pavimenti. Guarda che per me puoi fare quello che vuoi, anzi, vai pure al reparto lavatrici. Così iniziamo a farci un'idea, signorina emancipata. Guarda, ti faccio notare che quello dei due che fa il presepe vivente per guadagnarsi da vivere non sono io. E ora me ne vado perché l'ho deciso io e non perché me l'hai detto tu. Ehi, Frick. Sì? Non avrò mai figli io. Speriamo di non avere mai figli femmine. Ma dov'è finita la fallocrazia? E beh, che c'è? Caro babbo, babbo nel senso di Natale ovviamente, ti scriviamo perché vedi, qui il Natale non lo sente più nessuno. Dicono che è una festa commerciale, anche tu però sei un po' demodé, bisognerebbe lavorarci su. Se ti presenti in slitta, ok vabbè, ma quelle povere renne, tu pensa con una moto rombante, un giubbotto ripelle. Però nero, snellisce. Ci vuole un'idea geniale, Natale. Ci serve qualcosa, facciamo un Natale rock. Buon Natale, però un Natale rock. Un Natale sfrenato. Buon Natale, questa volta che sia rock. Già che ci siamo, mi piacerebbe tanto avere la voce del cantante degli AC/DC. Dai, dimmi di sì! Le star impazzirebbero con quella barba bianca. Ehi, dove credevi d'andare. Se tutti scrivono alla concorrenza, non ti puoi lamentare. Con quel capello lungo, quel castano che fa decisamente più rock, ti straccia già in partenza e allora sai che si fa un tatuaggio rock. Una bete! Ci vuole un'idea geniale, Natale, ci serve qualcosa, facciamo un Natale. Invecchiare come Mick Jagger degli Stones, ah, sì, mi piacerebbe tantissimo, anzi tanterrimo. Magari anche avere la centina con i numeri delle groupies, se si potesse. Non fare quella faccia, dai. Lo sai, anche tu puoi essere un rocker se lo vuoi. Devi soltanto volerlo, Natale, ti serve qualcosa, facciamo una sola. La canzone natalizia di Pane, Burro e Rock and Roll. Che vanto, che vanto. Ricordo, scaricabile gratuitamente ancora per qualche giorno sul sito della nostra etichetta di autoproduzioni Do It Yourself, www.punkrockers.it. Devo ringraziare pubblicamente Mox Cristadoro, nostro collega che conduce il pranzo di, che serve il pranzo di Rock FM, che nella puntata di Easy Rider di ieri, trasmissione che si occupa di programmare grande musica, ha avuto il cattivo gusto di programmare anche Buon Natale per Rock. Grazie Mox, ci ha anche ospitato a me a Freak. È stato un piacere. Tra l'altro, dopo l'intervento di Francesco, maledetto lui, che ci aveva fatto una figuraccia, Francesco, tra l'altro è meglio non nominarlo perché sembra essere nei nostri studi anche questa mattina. Va bene, via SMS attendiamo. Beh, adesso bisogna, cioè, molliamo la storia del ghiaccio sul parabrezza, se no, che facciamo? Buon Natale però Rock, abbiamo bisogno di segnalazioni, di problematiche di questo Natale. In queste due settimane abbiamo sentito di tutto. Ieri abbiamo sentito un insegnante che va alle Canarie. Non, per me è un insegnante che risponde al telefono mentre in classe, che è Rock. Abbiamo sentito un amico che c'ha il vicino che c'ha 5 metri di luminarie davanti. Abbiamo sentito l'amico ieri che avevo lavorato per 6 anni in un negozio di gadget natalizi. Insomma, qualsiasi cosa, segnalatecelo al 335-100-7777 e raccontateci le problematiche oppure le gioie di questo Natale Rock 2007. Mentre devo tranquillizzare Francesco, che mi scrive una mail accorata: cari Ariele, Roberto, cara Pane, Burro, Rock and Roll, devo darvi una notizia tremenda, sporcherà indelebilmente la vostra limpida fedina da DJ Rock, cioè devo dirlo, stasera vado a vedere il Lago dei Cigni alla Scala. Ecco, l'ho detto, scusatemi, ma dovevo farlo, non potevo tenermi oltre questa cosa dentro di me. Insomma, un vostro assiduo appassionato radioascoltatore rock va a vedere un balletto classico, lo so, deve essere un duro colpo per voi che curate e crescete amorevolmente una platea rock a cui regalate risvegli rock a suon di battute, chicche, canzoni, regali, calendari, e di punto in bianco se ne esce uno che preferisce veder volteggiare Roberto Bolle piuttosto che ascoltare la Claudia o guardarsi il DVD degli Schiantos. Spero che non me ne abbiate a male e non compiate gesti sconsiderati per questa grande delusione. Domani è un altro giorno e mi sveglierò ancora con pane, burro e rock and roll. Francesco, veramente, tranquillo, take it easy. Ti diamo la nostra benedizione per andare a vedere il balletto dei cigni, e non solo, ti chiediamo anche una recensione. Domattina ce la fai a sto punto, no? Chi l'ha detto che il balletto dei cigni non è rock? E poi chi l'ha detto che la Scala non è rock? In un post-scriptum ci chiede se lo faranno entrare col chiodo alla Scala. Ecco, questa è un'altra ottima idea, Stefano. Vai assolutamente col chiodo e vediamo cosa succede. Perché non dovessero farti entrare col chiodo alla Scala è un casino. Cioè, mettiamo su un pandemonio che non finisce più. Facci sapere, caro amico. Chiedono di programmare anche l'altra versione di Buon Natale per Rock. Avete ragione, quella costruita appositamente da Mr. Pinguino. Lo faremo. Entro venerdì. Ricordo agli amici, in attesa del calendario 2008, l'anno della svolta, che questo venerdì saremo a Firenze, all'ippodromo, quindi lo consegneremo brevi mano lì. E invece questo sabato saremo all'Alcatraz di Milano. Saremo, entrambe sono serate con DJ Set, dove ci saranno anche i calendari 2008, l'anno della svolta. Intanto il dolce Johnny Van Zandt con la sua Brickyard Road. Doesn't seem that long ago, three of us walking down that road, gray 55 Chevy parked in the front yard. Little Melody tagged along. Those were the best days, now they're gone. It's been 12 years since I went down. Lord, lost my best friend now. I can still see him fishing on that old dock. I know I can't bring back yesterday. But oh Lord, can you help me find my way down the Brickyard Road? Oh, walk on down. Down the Brickyard Road. He's waving now. Swore I saw a free bird fly, riding the winds of the southern sky. When I hear that whistle blow, it carries me back to Brickyard Road. Brother, do you realize what you've done? Touch the hearts of everyone. You might have died too young, but your songs live on. I know I can't bring back yesterday, but we'll be all together again someday down on Brickyard Road. Yeah. yesterday. Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Now it looks as though. Bless you all on Christmas Day.